Mamma mia, un altro mia. Bel pezzo, un altro Green bel Light. Pezzo. Green Light, lei era Lorde, ti interrogo per aiutarmi, non per, per testare la tua preparazione. Chromio Remix, ma è quel Chromio che ha rifatto World Up anche dei, dei Korn? O quel... può essere? Non lo so, così mi è venuta questa, questa associazione mentale che l'ha resa un po' più poppeggiante, perché World Up era un bel pezzo. Ok. New metal. Ok. Non lo so, vabbè, vediamo, vediamo. Le pelle del Master Nick. Dai, ogni tanto ci piace collegare. Green Light. Allora, siamo quasi pronti veramente per salutarci, sì, perché sì, sono sì, arrivati ancora, ordini. Ancora qualche minuto per salutarci. No, dicevo, Green Light, mi sì. viene in mente con Green Light una... come dire, una... che sta prendendo piede da parecchie settimane, ormai mesi, quella dei green, cioè quella dei verdi, no? Sai, delle proteste dei giovani, dei Friday for Future, li chiamano così. La, i famosi fratellini di... Greta, esatto, Greta. Greta Thunberg. No, la cosa che volevo sottolineare, adesso non, non vogliamo parlare di politica, non vogliamo parlare di quello che è Greta, sì. Però se non sbaglio, sedicenne, ma poco più, se ne sì, ormai caso, sedicenne, esatto, sì. Che ha comunque catalizzato l'attenzione di... tantissimi giovani che perché lei non andava a scuola, che l'hanno seguita e tutti i venerdì protestava. No, però è stata veramente portatrice di un messaggio che ha unito tantissimi ragazzi che come lei si sono messi in prima persona, hanno messo la faccia, ma non tutti, per però, farsi, per farsi sentire. Ha fatto risalire, non vogliamo parlare di politica, è un dato di fatto, però tutte le compagini dei Verdi, il gruppo politico proprio sì. dei Verdi, soprattutto in Germania se non sbaglio, hanno fatto un risultato strabiliante sì. solo perché avevano questo nome che ricordava lei, quindi in ogni caso ha influenzato sì. e poi quello il famoso che... X è dato sbagliato e quello che volevo invece segnalare sì. veramente che a 16 anni Greta Thunberg è stata candidata in settimana, poi non ha vinto all'Europa, no, al premio Nobel per la pace, cioè sedicenne premio Nobel per la pace. Ma poi lei io a 16 qualche... anni ancora non ero capace ma di no, accendere il motorino, ma veramente te lo giuro. Messo... ah no, ah, scusa, no, te lo giuro, pensavo. No, beh, era una battuta, però per dire anche la mia. A 16 anni avevamo tutti i pensieri, immagino. Ma diversi, diciamo che no? sì, in effetti c'avevamo certi abbiamo pensieri. Altro da fare, no? E invece sta ragazzina sta iniziando a girare il mondo. Sì, ma lei sai ha che visto ecco. Obama, ha visto Trump, ha visto la Merkel, ha visto chiunque. Su ha visto... Trump ha detto che ha fatto una faccia, lascia stare. Che... Eh sì, l'ha fulminato, l'ha fulminato, assolutamente sì. Però torno a dire: 16 anni, cioè, tu hai un figlio, giusto? Sì, sì. Quanti sì. anni ha? 6 anni, ecco, quindi immagina più o meno una ragazzina del doppio dell'età di tuo figlio o appena più sì, sì, sì. candidata al premio Nobel per la pace. Io ho una cugina di 17, quindi non è come ancora se... fatto niente nella sua, esatto, vita. Nella sua vita, ha letto dei libri, ha fatto scuola, ha preso, brava, preso brava. Dei bei voti, preso brava. Dei bei voti, ma mi fa veramente specie pensare a questa sedicenne nel pool dei candidati del premio poi Nobel per la pace. Greta arriva da una famiglia abbastanza attolocata, anche molto sì, è vero, rinnovata è vero. Dell'ambiente anche dello spettacolo, sì, sì, sì. credo che la mamma sia una scrittrice, se no lì non sono preparato, però mi fido. Comunque lei soffre di alcuni disturbi psicologici. Sì, sì, è vero, insomma, quello è vero. Molto è stata leggera. Infatti anche bullizzata per questo sui social. Bambini, è stata... I bambini sono troppo sinceri e anche cattivi. No, ma in generale anche sui social è stata anche bullizzata in maniera... Bullizzata? C'è la faccia inutile. Di Greta dappertutto. Esatto. No, ma al di là di quello, al di là dei meme, che però sono anche simpatici a volte, proprio come commenti che sottolineavano la sua, i suoi problemi, insomma. Sì, la gente è dietro... Diagnosticati. E sulle questo... tastiere sono tutte le ore. Bravo, bravo, perché non se lo merita. L'ultima cosa che invece volevo dire sì. è che Greta, al di là di questo bel riconoscimento che non si è trasformato, però insomma quello secondo rimane, posto, dai, rimane secondo posto. Ha come dire provocato anche, non so se hai sentito la notizia, l'arresto di Jane Fonda, che è un'attrice famosissima, che si è messa anche lei a protestare e l'hanno arrestata. Quindi addirittura una celebrità, ecco, dello star system americano sì. di Hollywood sì. si è fatta arrestare per protestare. Vabbè, in America non si ci piega neanche un nanosecondo per farsi arrestare. Sì. Cioè, basta che saluti un poliziotto. Ha fatto un casino allucinante. Vedremo anche come va a finire questa storia, ma il dato di fatto è che questa ragazzina, questo personaggino piccolino, biondino, la storia la sta cambiando in qualche modo e sta facendo parlare di sé. Andiamo avanti con la musica, torniamo a sentire un bel gruppo. E dopo un ci salutiamo. Bel gruppo, e poi ci salutiamo, direi di sì, perché è quasi che ora bello. Di cominciare la serata. Andiamo a risentire una gran bella canzone degli Imagine Dragons che si chiama On the Top of the World. If you love somebody, better tell them why they heat us. They just may run away from you. You'll never know quite when. Well, then again, it just depends. take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, hey. I'm on top of the world, hey. Waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, hey. Been holding it in for a while, hey. Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. Solo un accenno di questa bellissima On the Top of Ma the World. Veloce. Sì, è dell'Imagine Dragons, un riassunto. Un sì, riassunto. Sì, sì, proprio velocissimo. Tipo un trailer, una sorta di trailer. Perché è stato bello, nei siamo migliori cinema. Pronti a cominciare questa serata, sabato, Dinner and Dance con Vento di Lunato. E allora andiamo in postazione perché è il momento di fare festa. Grazie per a voi per averci ascoltato, continuate a farlo. Perché Salutiamo proprio tutti, ma in particolar modo due ragazzi che ci hanno ascoltato, ci hanno anche scritto: Valentina da Lumezzane e Davide Il Torre. Ok, che chiaramente stanno facendo festa da voi. Cioè, fai bene, sono quelli che ci sono firmati, poi ci sono stati anche tantissimi altri che ci hanno scritto, ma ripeto, adesso dobbiamo volare. Allora, in ragazzi, sala. I ragazzi, tu, le ragazze me ne tengo. No, beh, non vale però. Così. Che cavolo. Vabbè, ok, ok. Devo curare le pubbliche relazioni del commento. Va bene, va bene, va bene. Ti lascio fare il tuo lavoro. Allora, andiamo a fare nostro, ci buttiamo nella sala pronti a fare festa. Ciao. Continuate, dicevo, a seguire la programmazione di Ristoradio Convento. Ciao. Che continua tutta settimana 7 su 7, 24 ore su 24. Ciao. A presto da Master Nick e Alex Angeletti. Ciao ragazzi. Ciao. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. For all the single moms out there going through frustration. China ball and Marie thing made them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from my father's daughter. She just